Qual è lo scopo della musica? Un primo scopo naturalmente è non avere nessuno scopo, ma occuparsi dei suoni. Oppure, la risposta può assumere una forma paradossale, una mancanza di propositi, voluta di proposito, o un gioco senza proposito alcuno. Questo gioco, tuttavia, è un'attestazione di vita, non un tentativo di trarre origine dal caos, di trarre ordine. Sarebbe interessante trarre origine, di trarre ordine dal caos, né di suggerire progressi creativi ed educativi, ma semplicemente un modo di risvegliarci a quella stessa vita che stiamo vivendo e che non è, scusate, e che è una vita tanto straordinaria purché si riesca ad espellerne la mente e i desideri e a lasciare che agisca come vuole. John Cage. La locandina del treno di John Cage era per queste feste musicali di Bologna 1978 alla ricerca del silenzio perduto, tre escursioni per treno preparato, variazioni su un tema di Tito Gotti e John Cage con l'assistenza di Juan Hidalgo e Walter Marchetti. La regia dei suoni era di John Cage, ma in fondo il suo mestiere era suonare i suoni, cioè lasciare i suoni ciò che essi sono. Esatto. 210 nastri magnetici elaborati presso l'Arco Bazar, interventi strumentali, musicisti, sotto sentivamo prima del Mediostrato, se questo è il quartetto d'archi che era in fondo in uno scompartimento, perché alcuni scompartimenti erano stati svuotati e c'era un quartetto d'archi del Mediostrato con un microfono che sta lì e campeggia, e c'erano i nastri magnetici, i live electronics di Juan Hidalgo e Walter Marchetti, e noi tutti quanti lì a fare festa, come vedi. Stamattina ho ascoltato anche dei suoni rockeggianti. E infatti alle banchine delle stazioni c'era da una parte la banda, ma come ha detto, proviamo a avvicinarsi. La banda. Sai, di banchine delle stazioni, ad un campo c'era la banda musicale e all'estremo. Chissà come saranno i sconci di suoni, se saranno simili o completamente diversi. Sì, ma molto delle corali anche, io so. Però anche lì, anche 30 anni fa c'era una corale, mi ricordo. Non me la ricordavo, l'ho visto in un video, perché 30 anni fa... Ci avviciniamo all'installazione? Di quelle giornate, questa è una delle corali. John Cage è considerato il padre dell'indeterminismo, una sorta di estetica di ispirazione zen che applica l'esclusione di tutte le nozioni di scelta dal processo creativo, partendo dalla dissacrazione totale delle regole musicali classiche e tradizionali. Elabora un linguaggio intimo e rivoluzionario. Le sue composizioni per pianoforte preparato, come quella che abbiamo visto prima, Cialdo di fatto è un suo allievo, la cui struttura ritmica si sviluppa semplicemente come successione di durate, ospitano qualsiasi suono convenzionalmente musicale e non, incluso il silenzio. Questa concezione si approfondì nei celebri 4 minuti e 33 del 1952, tre movimenti durante i quali non fu eseguita una singola nota ed il silenzio, pervaso dai rumori accidentali dell'ambiente, costituì il suono della performance. Durante gli anni 50 i corsi di composizione sperimentale di John Cage alla New School furono frequentati da numerosi artisti che avrebbero in seguito dato vita al movimento Fluxus, del quale Cage è sempre stato considerato un ispiratore. A lui si deve una particolare elaborazione dell'arte performativa, che ha inciso sensibilmente la ricerca sugli happening, che era a capo poi di molti altri.